sborgate la periferia. E quella che avete sentito era Tripoli sotto le bombe, bombe che sono piovute ininterrottamente da marzo, quindi 6 mesi di bombardamenti a tappeto da parte della NATO in una guerra sporca come tutte quelle dell'ultimo ventennio. Noi siamo qui in radio con Flavio, che è venuto a trovarci proprio per parlare di ciò che ha visto nella sua attività di reporter, documentarista, proprio nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi in quei territori. Intanto un buongiorno Flavio. Ciao a tutti. E dunque, da cosa vogliamo iniziare? Insomma, dal primo scambio di battute che facevamo prima, stavamo pensando di iniziare proprio a partire dal punto di vista occidentale rispetto agli avvenimenti libici e del fatto che, quantomeno da noi in Italia, insomma, il movimento contro la guerra ha battuto un po' la fiacca. Diciamo che le prestazioni di piazza, passatemi il termine, di qualche anno fa sulla guerra in Iraq sono un ricordo sostanzialmente lontanissimo. In questa circostanza, cioè da marzo ad oggi, vi sono stati dei momenti di mobilitazione, soprattutto sotto forma di presidi, che però insomma non hanno visto partecipazione con punte altissime. Insomma, chiaramente i compagni che hanno organizzato queste giornate si sono impegnati nel farlo, anche cercando di analizzare quanto stava succedendo, ma di fatto, insomma, forse l'iniziativa con obiettivo più qualificante è stata proprio quella di fronte al comando militare unificato sulla Tuscolana, ma insomma le possiamo contare sulle dita di una mano nelle giornate di mobilitazione che hanno riguardato in particolare la nostra città, Roma. Vorremmo capire in Spagna, visto che tu comunque vieni anche di lì, insomma, se le cose sono andate diversamente, anche in virtù del fatto che il momento dal punto di vista delle piazze è un po' diverso e se si è potuta creare anche una sorta di contaminazione da questo punto di vista, puntando anche a una solidarietà internazionalista che qui da noi, ripeto, insomma, è venuta un po' a mancare. Sì, beh, per cominciare, come dicevi, io sono residente e lavoro in Barcellona, per cui un po' col mio riferimento alla Spagna o Catalogna in questo caso, ma comunque la Spagna in generale, e comincerei con il fatto che oggi è un giorno importante in Spagna, perché è il giorno nel quale si è convocato un presidio davanti all'ambasciata statunitense in Madrid. Non sappiamo ancora come saranno gli esiti di questa convocatoria, però comunque sia speriamo che si incominci a agglutinare, a muovere questo movimento in contro della guerra, che anche in Spagna come in Italia ai tempi di Iraq è stato molto forte, e per Libia purtroppo non ha ripetuto le stesse prestazioni, no? Usando questa parola che anche tu stavi utilizzando prima. Un altro appuntamento molto importante sarà il 24, quando è stata convocata una manifestazione in contro della guerra in Madrid, con un taglio sostanzialmente in contro dell'imperialismo di questa nuova guerra che, se dovessimo fare un riassunto, chissà, potremmo dire che di nuovo è una guerra di saccheggio con scopi economici relazionati con il petrolio e con il controllo di una zona geopolitica africana, in più chiave, perché nel marco delle primavere arabe, per cui la nostra speranza è che chiaramente che il 24 in Madrid si possa dare un segno importante anche in contro dell'attuazione del governo spagnolo, che come l'italiano ha partecipato chissà con un profilo meno importante a livello internazionale, però anche il governo spagnolo ha partecipato a questa operazione militare, no? Un'operazione un poco tipica, una guerra un poco tipica, della quale ora sicuramente, no, cominceremo a parlare, cominceremo a analizzare. Però ripetiamo, lentamente si stanno muovendo le cose anche in Spagna. Noi abbiamo creato una piattaforma che abbiamo chiamato una piattaforma molto trasversale, che agglutina persone con interesse, età e attività molto diverse, che si chiama Occhi per la Pace. E già abbiamo diffuso un manifesto a livello spagnolo e cominciamo ad avere molte sottoscrizioni a questo manifesto. Chiaramente i punti chiave del manifesto, uno chiaramente incontro della guerra, ma questo è facile dirlo, però soprattutto un'analisi su quanto si abbia stravolto il senso anche della risoluzione 1973 della ONU, che si è creato sotto l'idea di creare una risoluzione che proteggesse i civili dai supposti bombardamenti del governo libico, e si è trasformata completamente nell'opposto, in un bombardamento continuato di tutto il territorio sotto il controllo del governo libico. Una cosa che stavamo analizzando, uno dei temi che stavamo analizzando negli ultimi giorni, che ci sembra molto importante e molto clamoroso, che al dia di oggi gli unici bombardamenti che abbiamo la certezza che sono stati effettuati in Libia, gli unici bombardamenti sui civili, sono i bombardamenti della NATO e dell'alleanza di tutti i paesi che hanno partecipato e respaldato sia economicamente che militarmente questa alleanza, e questo ci sembra un dato molto forte. Chiaramente anche abbiamo visto segni di conflitto armato, quindi di bombardamenti o comunque sia di conflitto con armi pesanti da tutti e due i lati quando siamo stati in Libia. Stiamo parlando di maggio, i suoni che avete sentito dei bombardamenti su Tripoli sono del giorno del 24 di maggio, che è stata un po' il giorno dell'escalation più forte sulla città di Tripoli, probabilmente per cercare di schiacciare la morale dei cittadini tripolitani. E da quel momento in poi abbiamo visto chiaramente segni di conflitto, di guerra civile, però mai abbiamo potuto vedere le famose violazioni dei diritti umani o bombardamenti massivi di popolazione, per i quali si è creato questa alleanza di stati occidentali, per i quali si è mossa questa operazione militare della NATO. Quindi questo ci sembra un segno molto importante di tutto quello che è successo lì in questi giorni, che chiaramente rimonta alla primavera araba, e poi possiamo cominciare anche a analizzarlo in questo senso, no, se vogliamo. Sì, io mi soffermerei ancora un pochettino proprio sulle difficoltà che ha incontrato il movimento contro la guerra. Io ne parlo chiaramente in chiave nostrana, ma tu insomma allargati pure insomma dove preferisci. No, volevo sottolineare il fatto che comunque a impedire forse è esagerato, ma sicuramente ostacolare la ripresa di un movimento, se vogliamo, forte anche dal punto di vista antiimperialista, con parole d'ordine precise, sono state anche letture dello scenario internazionale di marca sciovinista, che qui in Italia ad esempio sono uscite fuori con alcuni articoli sul manifesto, soprattutto quelli a firma di Valentino Parlato. Costui a un certo punto insomma si è fatto portavoce per l'appunto di una sorta di antiimperialismo sciovinista, preoccupato del fatto che la posizione delle imprese petrolifere nostrane, in particolare dell'ENI, fosse particolarmente dura e difficile proprio in virtù della guerra. Quindi la ragione per opporsi al conflitto muoveva dal fatto che erano messe in discussione le posizioni delle nostre imprese, insomma una posizione molto che noi chiaramente rispediamo al mittente, ma D'altra parte ci sono state anche invece scopertamente posizioni di appoggio alla guerra della NATO proprio in funzione anti Gheddafi tout court, insomma, ecco, sì. Lungo quest'arco di posizioni una sinistra coerentemente antiimperialista e anticapitalista, insomma, non è riuscita a farsi strada e dire la propria, questo quantomeno da noi. Volevo capire se in Spagna, insomma, ci sono stati anche lì questi problemi, posizioni di tipo codiste o quant'altro, insomma. Sì, io ti direi da quello che vedo, credo che la situazione in Spagna chissà è stata un poco differente, ma neanche moltissimo, nel senso che soprattutto nel primo momento, e qui dobbiamo tu hai fatto un riferimento molto interessante, no? Quello al manifesto, comunque sia ai mezzi di comunicazione. Io credo che questa è stata una guerra nella quale i mezzi di comunicazione e la guerra mediatica è stato un elemento chiave. Forse sicuramente in tutte le guerre il media ha un ruolo chiave, però chissà in questa guerra di Libia la manipolazione a livello di mezzi di comunicazione è stata incredibilmente alta, e questo ha influito molto anche nelle posizioni della sinistra, tanto che anche in Spagna sia a livello di organizzazioni che a livello di posizioni personali di attivisti riconosciuti per il loro lavoro sul, insomma, antiimperialista o per la pace, hanno avuto posizioni a dir poco ambigue, perché soprattutto nel senso che vediamo noi, per esempio, come piattaforma o altre persone che si rifanno alla nostra posizione, nelle quali una guerra comunque sia è sempre una situazione, un evento da rifiutare, sicuramente e ancora di più nella forma del bombardamento come si è sviluppato in Libia dell'Alleanza Atlantica della NATO. E io quello che soprattutto ho trovato a mancare una posizione seria e profonda per cercare di creare una mediazione tra le due parti, perché ricordiamoci che questa sicuramente era una guerra civile nelle quali responsabilità e se vogliamo anche mancanze, errori si possono ripartire dalle due parti, però io credo che qualunque posizione in questo voglio essere minimalista, no? Diciamo, qualunque posizione di un governo che abbia una posizione rispettabile sulla pace dovrebbe essere a favore di una negoziazione, di un incontro di pace, e gli appelli soprattutto dalla parte a un certo punto del governo diciamo di Gheddafi, che non necessariamente è solo Gheddafi, cioè è un governo, no? Un governo con una struttura in più tribale che è molto complessa e che chissà dovremmo un po' cercare di intendere, perché non è esattamente la democrazia o falsa democrazia come la teniamo noi, non parlamentare, lì esiste una rete di un intramato, no? Diciamo una rete molto, molto complessa di riunioni tribali che prendono le decisioni su quello che succede nel territorio libio, e alla fine forse volendo possiamo anche ridurre questa guerra, semplificando molto, a uno scontro tra due grandi cordate di tribù, quella più vicina a Gheddafi che tiene la sua capitale tra Sirte e Tripoli, e l'altra di Bengasi che forse a un momento ha deciso che voleva anche lei avere un ruolo economico più preminente e sicuramente anche approfittare della situazione mondiale. Ripeto, nessuno esclude gli abusi che sono stati commessi da queste tribù, probabilmente l'arricchimento che si è creato a partire di questo più per alcune famiglie che per altre, però io credo che qualunque tipo di posizione, e ripeto, minimalista, e poi dopo se vogliamo parliamo più in profondità di una posizione seria e dura in contra della guerra, in contra dell'imperialismo, in contra del saccheggio che Occidente in questo momento sta esprimendo come la unica forma di relazionarsi con questo cambio mondiale che gli sta avvenendo in cima. Io credo che qualunque posizione, ripeto, anche minimalista, sarebbe dovuta essere per la negoziazione. Un grande ruolo hanno cercato di giocare gli stati africani con l'Unione Africana, soprattutto liderata in questo caso da Mbeki, dal presidente sudafricano, che ripetutamente ha visitato Tripoli. Io sono stato lì in una di queste visite, insomma, l'abbiamo incontrato, l'abbiamo visto, però purtroppo non c'è stata mai una risposta positiva né dal Consiglio Nazionale di Transizione, che sarebbe l'organo che hanno creato quelli che all'inizio abbiamo chiamato come i ribelli, no? Con capitale in Bengasi, ma soprattutto è mancata la disponibilità di Occidente per pressionare questo fantomatico consiglio per fare una negoziazione realmente di pace con Gheddafi. Quindi, ritornando un po' a Occidente, io penso che a livello generale, a livello di governi e di nazioni, è mancato soprattutto questo, e mi sembra un fattore che non è stato analizzato in profondità, che mi sembra gravissimo realmente. Cioè, mi sembra molto grave che i governi occidentali, che all'inizio hanno innalzato la bandiera "andiamo a difendere i civili", hanno deciso di continuare una guerra, un'escalation della guerra che a un momento ha portato al bombardamento della casa di Muammar Gheddafi, che ha portato alla morte del figlio, un amico del figlio, e tre nipoti di Gheddafi, che è un dato che, detto così, è diluito nei numeri che si stanno in questo momento parlando dei morti della guerra. E ora parliamo se vuoi anche di questi, dal CNT parlano di 20.000 morti, però altre fonti parlano di 68.000 morti. Questi sembrano dati molto piccoli, però denunciano una volontà di colpire Gheddafi, la sua famiglia e il suo entourage, che è un elemento che è completamente al di fuori di quello che erano gli scopi della risoluzione 1973, completamente al di fuori delle bandiere che avevano issato tutti quanti i governi, a partire chiaramente dal francese e dall'inglese, e poi tutti quelli che si sono accodati, tra cui quello italiano, quello spagnolo, ognuno con il suo ruolo, e dimostrano la volontà reale e imperialista di sponsorizzare un cambio tra l'altro molto dudoso, perché stiamo vedendo sempre di più, e finalmente escono i report anche di organizzazioni di diritti umani transnazionali come Human Rights Watch o Amnesty Internazionali, che ognuno può avere più o meno simpatia su questi report, però finalmente stanno scendendo report che parlano degli abusi e delle violazioni di diritti umani di questo altro lato, no? Del CNT, di questi fantomatici ribelli. E io voglio dire una cosa che è uscita anche sui giornali italiani. Io appunto sono qui di passo in Italia, però sono arrivato al secondo giorno, l'ho visto ben esposto in La Repubblica, in una pagina, l'intervista al nuovo capo della sicurezza in Tripoli, il cui nome ora è Belai, ora non ricordavo il nome, il cui nome è Belai, ed è una persona che appunto ha liderato l'entrata dei ribelli in Tripoli, e fino al 2010, cioè nel 2010, lui era stato incarcerato per presunte relazioni con Al Qaeda, uno dei nemici di Occidente, e ora ci fa il discorsetto su quanto è bravo Sarkozy e quanto è bravo Cameron. Io penso che sono elementi di una tale contraddizione intrinseca e profonda, che qua dimostrano di nuovo il gioco di sempre di Occidente, che è questo gioco armare e disarmare, perché poi, se voi, parliamo delle testimonianze che io ho incontrato, rifugiati di Bengasi, ti sto parlando dei rifugiati che non appaiono mai nei mezzi di comunicazione, cioè rifugiati che da Bengasi, controllata e liberata suppostamente da questo Consiglio Nazionale di Transizione, sono venuti a Tripoli perché non potevano più della mancanza totale di legge che c'era per le strade, e le testimonianze erano che quando nei primi giorni della rivolta, cioè intorno al 15 febbraio, realmente è pensato a gennaio, però se voi poi matizziamo un po', del 15 febbraio, quando si diceva che arrivavano le truppe di Gheddafi a bombardare la città, cioè distribuivano mitragliette, armi pesanti o semipesanti, automatiche, semiautomatiche, con camionette in mezzo della strada. Io, scherzando, questi giorni stavo parlando con alcuni amici, alcuni compagni di qua, e dicevo: tu pensa se vengono, ecco, mira, qua stiamo a San Lorenzo, se qua alla piazzetta del mercato arriva una camionetta con le mitragliette e si appunta a qualunque persona, voglio dire, le motivazioni per entrare in questo coacervo, no? in questo conglomerato di gente che poi sono stati ribelli, che poi hanno fatto questa ribellione chiaramente appoggiata dalla NATO, perché con i bombardamenti della NATO, se no non sarebbe chiaramente andata da nessuna parte, e i segni c'erano chiaramente. Cioè, pensiamo questi, cioè, che arrivano sotto casa con le mitragliette e le danno ai ragazzini dei 18 anni, no? Ora, e senza fare critiche, sicuro ci sono persone con grande coscienza che l'hanno che hanno fatto questa rivolta credendo di migliorare i Libyan, non lo dubito questo. Io veramente, la mia posizione e il mio invito anche è che questo tipo di questioni dovremmo essere tanto maturi di cercarle, di aiutarli a fare la pace e non la guerra, per cui lasciare a loro i momenti conflittuali che qualunque situazione geografica, geopolitica creano. Però ripeto, cioè, le testimonianze che io ho ascoltato è questo: camionette che arrivavano distribuendo armi, questo leader che faceva parte d'Al-Qaeda e che probabilmente già stiamo costruendo la prossima guerra perché dovremmo andare a disarmarli, o la prossima entrata delle ONG che già sappiamo come si muovono. Senza nessuna critica alle ONG, io lavoro moltissimo con organizzazioni non governamentali e fondazioni, però ce ne sono moltissime che lavorano completamente al soldo poi di organizzazioni, di stati o direttamente baco legida della NATO, della UN, mascherate in varia maniera. E poi il prossimo passo quale sarà? Andare là e montare un programma milionario che potrebbe, che veramente si potrebbe investire per il popolo di libico, e invece monteremo un programma milionario per cercare di riavere queste armi che gli abbiamo dato senza nessun criterio, no? Cioè io voglio dire, veramente mi sembra una contraddizione inammissibile armare la gente di questa maniera indiscriminata. Chiaramente non lo ha fatto Occidente con la camionetta con scritto Occidente, però noi abbiamo prove da tutte le parti, stanno uscendo sempre di più, non lo dico io per fortuna, lo dicono sempre più organismi internazionali e anche all'interno della stessa UN stanno cominciando a uscire le critiche. Chiaramente sono stati finanziati con soldi di Occidente e soprattutto di Qatar, no? Questo è stato l'altro elemento chiave, la posizione di Qatar e di Al Jazeera, che è diventata incredibilmente, cioè, questo non so quanto si racconta qui in Italia, in Spagna molto poco. Al Jazeera, che era la famosa televisione della parte degli arabi che andava in Iraq e faceva vedere quello che non facevano niente, adesso è diventata, era una televisione che non poteva entrare in Tripoli, cioè io sono stato appunto in Tripoli e purtroppo da una parte, però queste erano le condizioni, sono stato nel famoso hotel Riscio, che è l'hotel dove erano alloggiati tutti quanti i giornalisti stranieri, e poi ognuno là si cercava un po' la vita per cercare di lavorare nella maniera più indipendente possibile con tutte le difficoltà. Cioè lì c'era la CNN, c'era la BBC, c'erano tutti quanti. Al Jazeera non c'era, perché Al Jazeera veramente, io penso, da quello che ho visto in Tripoli, se avesse camminato per le strade di Tripoli doveva andare veramente scortata con le mitragliette, veramente lì gli serviva una scorta, perché il primo risentimento di tutta la popolazione libica in questo caso, ma comunque sia anche araba in generale, è stata per questo grande tradimento di Al Jazeera. E chiaramente dalla mia prospettiva e dalla prospettiva di molti altri, perché si è schierata completamente con questo bombardamento, completamente con questa ingerenza occidentale in un assunto che ripetiamo, cioè questo è un assunto interno libico, chiaramente molto duro, molto crudo. Io posso ammettere, cioè io credo che sarebbe che la pressione internazionale su Gheddafi si sarebbe dovuta esercitare per evitare chiaramente qualunque tipo di strage di civili, ma comunque sia stiamo parlando nei primi giorni, cioè i report sono 30 morti, 85 morti, poi dalla parte del CNT, no? che vanno verificati. Non li infraloriamo, ogni morto è doloroso, ogni vita è preziosissima, però siamo molto lontani poi dai 20.000 di cui parliamo oggi, di cui molti sono causati dai bombardamenti della NATO e dei bombardamenti di questi ragazzi che, diciamoci la verità, prendono i lanciamissili e tirano un po' cogliono, no? Cioè, perdonate l'espressione tar romana, però rende molto bene l'idea, perché questo era un po' un'armata brancaleone del secolo XXI, insomma, molto pericolosa da vedere e tra l'altro molto connotata a livello islamico, e io chiaramente sono molto rispettoso di qualunque tipo di credo, religione, spirituale, insomma, comunque sia Libia è uno stato dove l'Islam ha un ruolo molto forte da sempre, anche con Gheddafi e con la rivoluzione verde che Gheddafi ha messo in piedi. Però devo dire che un'immagine che mi ha scioccato moltissimo è stato vedere la Piazza Verde, che è la piazza simbolo della rivoluzione in Tripoli, che io non ho mai visto pregare nessuno, non ho mai visto, e verla due giorni dopo l'entrata di questa gente, appunto capitanati da questa persona che suppostamente con correlazione con Al-Qaeda, piena di persone facendo rezzando, cioè pregando all'ora del, queste immagini che siamo ormai abituati a vedere nei paesi islamici. Ripeto, ognuno è libero tranquillamente di fare quello che che crede e che sente, però mi sembra molto strano che noi occidentali dobbiamo appoggiare una rivolta con questo tipo di caratteristiche nel nome della libertà, nel nome della laicità dello Stato, nel nome delle democrazie occidentali che si fregiano, no? Che si appuntano questa medaglia di essere, perché noi portiamo la democrazia, portiamo la laicità, portiamo il progresso, e vediamo che in tre giorni la gente già si sta coprendo la testa, che prima chi voleva se la copriva e chi non voleva, cioè Libia... La Libia che ho visto io era molto tranquilla. E vogliamo dare altri dati che sono secondo me molto importanti e abbastanza scioccanti. E io per esempio qualche giorno fa, ho stato anche per curiosità, no? Basta ponere in Google o in qualche buscatore, in qualunque buscatore, Libia, e andiamo in Wikipedia, e Wikipedia la prima cosa che esce fuori, cioè Libia, il paese con il PIL, il prodotto interno lordo più alto di Africa. Insomma, questi sono dati molto forti. E alfabetizzazione dell'80%, educazione gratis, sanità gratis, che in Africa per noi qui stiamo lottando fortemente perché non ritaglino la sanità, e perché chissà, per molti anni ci siamo un po' addormentati perché ci sembrava come un diritto acquisito, però chi ha viaggiato per Africa, insomma, immagino che ci sono molte delle persone che ci stanno ascoltando che lo hanno fatto, ecco, andiamo in Mali o andiamo in Senegal dove i malati, cioè la famiglia se stanno in ospedale gli deve portare da mangiare, e devono comprare le medicine ogni giorno in ospedali, uso un'espressione spagnola, de mala muerte, non so, cioè proprio fatiscenti e che cadono a pezzi. Io sono stato negli ospedali, per fortuna non per me, però vedendo purtroppo i feriti e anche i morti seguiti ai bombardei della OTAN, e sono strutture molto simili alle strutture che abbiamo noi in Italia. Ora, non per questo facciamo un'apoteosi di nessun governo, non è un elemento, chissà, non è un elemento chiave, però è un elemento indicativo. Cioè un paese che comunque sia istruzione gratis, sanità gratis, aveva una piccola parte di tutti gli introiti, di tutti i guadagni del petrolio annuale, che questo l'avevano deciso le tribù in assemblea, si ridistribuiva a ogni famiglia, non stiamo parlando di moltissimo, mi sembra che mi hanno detto 300-400 euro mensuali, però stiamo parlando di Africa, e vorrei vedere quali altre nazioni hanno questo tipo di caratteristica. Per cui la famosa rivolta, la famosa rivoluzione che all'inizio ci siamo appuntati a difendere perché simile o con elementi simili a Tunisia e a Egitto, non ha niente a che vedere. Molto di più io penso dobbiamo pensare da un lato al petrolio, ma non perché questo chissà è un errore che veramente la sinistra ha fatto, non subestimiamo, non infravaloriamo l'elemento geopolitico chiave di mettere lì un avamposto, no? Un posto controllato, perché questo adesso succederà per Occidente, in un posto chiave esattamente nel centro dove stanno succedendo queste rivolte, noi occidentali abbiamo tutto l'interesse lì di controllare, senza considerare che è un grande corridoio, in più adesso se vuoi parliamo pure di quello che sta succedendo a livello militare lì, è un grande corridoio che poi confina verso il sud e si apre verso dove? Altri posti che l'Occidente... Io a volte, guarda, non è una cosa bella, però a livello istintuale penso stanno aprendo un altro mercato lì, e quali saranno le prossime frontiere? Sudan del Sud è nato da poco, un altro posto che prima o poi dovranno normalizzare, e chiaramente non c'è questa abbondanza di risorse energetiche, per cui non è tanto prioritario, però Somalia prima o poi metteranno piede anche lì, di fatto già lo stanno cercando di fare con la scusa, della famina, no? Della crisi alimentare che c'è in Somalia, chiaramente... Io penso che qualunque sforzo è lecito per evitare che persone muoiano di fame, che è la morte più orrorosa e più assurda, insieme al fatto di essere bombardato, chiaramente, no? Di essere ucciso da un'arma che costa... a volte, scusate se salto, però anche il fatto di aver vissuto tanto da vicino questi elementi, spesso io pensiamo, no? Io e molte altre persone come me, ogni bomba, quelle di basso costo che loro sganciano, costano ai governi che le comprano, le industrie, tutto, entre 20.000 e 30.000 euro, no? Ogni bomba, e hanno fatto migliaia e migliaia di raid con migliaia di bombe, e sto parlando delle più economiche, non quelle che lanciano dal mare, che a volte costano quasi 1 milione di euro, 600.000 euro, cose così. Cioè pensiamo che ogni bomba di quella potrebbe risoluzionare moltissimi dei problemi che noi abbiamo o che Africa ha, o per esempio la crisi in Somalia o la crisi di Libia. Cioè investire questo dinero, perché non lo investiamo nella pace e non nella guerra, no? Chiaramente questa è la mia posizione un po' idealistica, poi la realtà è molto più difficile, e poi soprattutto l'industria armamentistica non si può toccare, questo è il punto. Certo. Senti, allora ci hai detto tantissime cose, no, ma insomma ci stai dando tante, tante informazioni su cui riflettere e ragionare. Infatti, insomma, non so da dove partire, proprio perché gli assist che hai dato sono molti, perché da una parte ci sarebbe da affrontare il problema degli interessi appunto economici occidentali, prima di tutto quelli franco-inglesi e anche quelli statunitensi, rispetto al fatto che comunque hai voglia a dire, insomma, la guerra umanitaria, andiamo ad assistere i civili libici e i ribelli. È chiaro che le ragioni, insomma, sono di natura economica, oltre che geopolitica, lo facevi riferimento a queste anche tu. Storicamente, insomma, l'Inghilterra ha avuto comunque dei rapporti in Cirenaica duraturi, in un modo o nell'altro ha sostituito quasi noi italiani subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi, insomma, con le politiche energetiche di Mattei e quelle democristiane, in un modo o nell'altro siamo riusciti, dal punto di vista, insomma, degli interessi italiani, a risalire la china, e Gheddafi rappresentava un po' proprio questo tipo di soluzione, più italiana che inglese. Si può dire che oggi la British Petroleum, insomma, ha rinnovato, no, attraverso questa guerra, i suoi interessi petroliferi nella regione. Dall'altra parte, invece, abbiamo un paese, quello d'oltre Alpe, la Francia di Sarkozy, sì, che in Africa ha comunque svolto sempre un ruolo di prim'ordine dal punto di vista della politica coloniale. Gli interessi francesi, insomma, in Africa sono sconfinati, dalla Costa d'Avorio al Chad, lo stesso Sudan, recentemente, insomma, anche in Niger nel febbraio del 2010 è stato deposto il presidente, lì ci sono gli interessi di Areva soprattutto rispetto all'uranio. Il presidente nigeriano si era reso colpevole di aperture di mercato dell'uranio alla Cina ed è stato prontamente silurato. Non si sa, insomma, se da questo punto di vista la Francia che ruolo abbia, ma possiamo chiaramente immaginarlo. Ecco, da questo punto di vista, probabilmente invece rispetto a alla partecipazione anche americana, che si è fatta più forte via via che il conflitto andava avanti, probabile che ci siano anche manovre anticicliche rispetto alla crisi economica che si vive a Washington. Ecco, di tutto questo tu che idea ti sei fatto? Dopodiché cercheremo magari invece di capire cosa si è mosso all'interno della società libica, certo, che è l'altro versante che ci interessa. Io penso, insomma, di nuovo un poco già lo stavo dicendo, chiaramente l'interesse, cioè, diciamo, la scusa, io penso il piano è perfetto, no? La scusa è stato l'intervento umanitario e a difesa dei civili, e sicuramente l'interesse è geopolitico e energetico, per cui in questo caso la mia opinione, però, insomma, questa è anche personale e lo abbiamo discusso molto, e soprattutto sul piano geopolitico, perché chiaramente il ruolo della crisi economica che sta affettando, no, tutte le economie europee e occidentali, statunitense, meno la canadense, è anche chiave, perché c'è una sorta di idea di apertura di mercato, cioè, e tra l'altro lì si gioca anche questo un po' questo gioco della ripetizione rispetto a Iraq. Io credo che la situazione che portò alla guerra di Iraq, che chiaramente ci sono differenze profonde, non semplifichiamo troppo, però di nuovo, no, la risposta occidentale di fronte a una crisi che già si cominciava a profilare e gestare una crisi che poi potremmo riassumere come una crisi del dominio del mondo occidentale sul mondo in generale, no? E questo è qualcosa che è estremamente spiazzante per i governanti, i governi e le società occidentali in generale, per cui la risposta più facile, perché lì diciamo il dominio, il predominio occidentale indiscusso è sul piano bellico, nel senso sul piano bellico nessuno può competere per il momento con gli Stati Uniti o con l'alleanza con la NATO, per cui è una risposta molto efficace incontro delle crisi. Poi sappiamo, insomma, ora non facciamo lezioni troppo semplici, no? di politica, però il warfare, cioè lo Stato basato nella guerra, spesso è una risposta a una serie di questioni interne di Occidente, cioè dai tempi di Reagan, no? che fu già un altro dei protagonisti, no? di questa guerra latente con la Libia, perché ordinò negli anni Ottanta il bombardamento di Tripoli, ed è uno dei fautori di questa idea di warfare, no? Esportare la guerra in tutto il mondo, e la guerra diventa in qualche modo, quando non funziona l'economia capitalista, quando l'economia capitalista comincia a tremare, una risposta efficace è la guerra, per vari motivi. Uno, c'è un'industria armamentistica che è completamente legata a filo diretto con i governi che dominano il mondo, nel senso che probabilmente se andassimo a fare esami, e ci sono comunque sia online, sono tutti amici, parenti, si spartiscono questa grande fetta, questa grande torta che è l'economia bellica. E per un altro lato, che non è assolutamente da sottovalutare, c'è l'industria della ricostruzione, che è qualcosa di incredibile. Cioè, quando noi apriamo tramite la guerra un mercato, perché poi questo alla fine è l'operazione che si fa, e si fa un'operazione che secondo me la possiamo definire neocolonialista in qualche modo, no? Cioè, si entra dentro neocolonialista, perché non è coloniale, perché lasciamo appunto rappresentanti che sono molto legati alle sensibilità di Occidenti, per poi scoprire che magari sono pure amici d'Al-Qaeda, no? Perché qua tutti si appuntano a tutto purché ci sia dinero e cose da spartire finché dura, no? E poi si cambia di lato con molta facilità. E quando apriamo questi mercati, poi nasce un'incredibile industria di ricostruzione a tutti i livelli, dalla ricostruzione di infrastrutture, che in questo caso in Libia io spero non sia tanto forte la situazione come per esempio è stata in Iraq, ma anche un'industria di ricostruzione ideologico-culturale, perché prima li bombardiamo e poi dopo portiamo le ONG che parlano dei diritti umani. E ripeto, io lavoro moltissimo con ONG che parlano dei diritti umani. Chiaramente io credo fermamente nella maniera sana, però ce ne sono altre che vanno là perché vanno dopo a normalizzare come una situazione dopo che li abbiamo bombardeati, maciacati, distrutte tutte le strutture, e facciamo anche questo tipo di operazione, che non ne parliamo molto, ma sono operazioni bilionarie di euro messi in questo caso come sempre dalle Nazioni Unite, e in questo caso sicuramente sarà anche della OTAN. Io vi invito anche a vederlo, perché mi sembra super interessante. La OTAN ha un canale di televisione, cioè io chiaramente non mi va molto di guardarlo, perché vi potete immaginare che è propaganda pura e dura, però è interessante vedere come loro si sono strutturati e parlano, si riempiono molto bene la bocca con la difesa dei civili, con i diritti umani, i diritti dei bambini, delle donne, finché poi li bombardiamo, no? E tolto questo lato, c'è sicuramente volevo dire dal punto di vista della ricostruzione, ecco, visto che lo accennavi, insomma, interessante notare il fatto che pochi giorni fa proprio il Fondo Monetario abbia riconosciuto, insomma, il governo del CNT, del Comitato Nazionale Transitorio, augurandosi una stagione di riforme che inevitabilmente andrà a coincidere con un programma di privatizzazione. Esattamente questo, e in questi giorni lo vediamo tutto spiegato. E tra l'altro, per esempio, il CNT, ci sono state molte resistenze a riconoscere formalmente il CNT come rappresentante legale di Libia, mentre si avvicinavano a Tripoli è stata tutta una macchina molto ben montata, quella del colpo finale che hanno dato a Tripoli, perché quando noi siamo andati, e ti parlo di finale di maggio e buona parte di giugno, quando siamo stati lì, la sensazione che si respirava è che i ribelli non avanzassero di nessuna maniera, e questa, se ricordiamo anche nei mezzi di comunicazione, era la critica che spesso veniva fuori, che questa famosa guerra che doveva durare poche settimane stava durando, appunto, no? Al finale è durata 6 mesi, e come sempre, e qualcuno lo sospettava, io l'avevo detto ora, non perché sia nessun merito, l'ho detto con moltissimi altri, no? Approfitteranno i famosi mesi, no? Quando fanno sempre le operazioni, o sotto Natale come l'operazione Piombo Fuso in Gaza, o in agosto quando l'opinione pubblica è più distratta, quando la gente va al mare, quando sanno che la gente scende meno in piazza, perché anche quello è un fattore che si deve tenere in conto negli equilibri internazionali. Loro hanno intensificato completamente la guerra, hanno riconosciuto uno dopo l'altro il CNT, il primo UK, no? Il primo Inghilterra, insomma, UK, il primo a riconoscerli, e poi tutti, molti in cordata fino all'entrata a Tripoli, che appunto è dei giorni di agosto. Un'operazione montata chirurgicamente perfettamente, cioè mentre stavano in alcuna maniera in una situazione di stallo che, visti gli elementi in gioco, era come perdere la guerra. Quella era la critica che anche cominciava a emergere dai mezzi di comunicazione. Hanno intensificato completamente i bombardamenti, ci sono stati fino a 150 morti civili, cosa che non era mai successa tutti insieme, fino all'entrata in Tripoli. Comunque, ritornando alla tua domanda, perché poi è chiaro la questione è tanto ricca che a volte ci sviamo, ritornando alla tua domanda, poi c'è l'altro interesse, che è l'interesse di sempre, che è l'interesse sul piano energetico del gas e del petrolio di Libia. Sappiamo che è una nazione molto ricca in questo senso, e chiaramente non so, nell'opinione di molti analisti internazionali, il desiderio di entrare in questo mercato da parte soprattutto di Francia e di Inghilterra, appunto come dicevi tu, con la British Petroleum e con la Total, che sono due dei grandi giganti che in qualche modo hanno displazzato l'ENI, no? Tu facevi riferimento a questo antiimperialismo sciovinista, perché l'ENI ha il monopolio del mercato libico. Mi sembra completamente triste e fuori di luogo, no? Sì, è una realtà, l'ENI aveva questo monopolio, però chiaramente nella mia analisi, insomma, di attivista no, per la pace, mi sembra completamente ininfluente, no? Una questione come questa, che sia l'ENI o che sia la British Petroleum, perché alla fine tutti quanti hanno lo stesso tipo di politica. Tra l'altro, l'Italia, io credo che tristemente, ha perso un'occasione, però che potevamo aspettare da un Parlamento e da governanti come quelli che in questo momento ci, insomma, amministrano tristemente l'Italia, ha perso un'occasione, diciamo, d'oro per giocare un ruolo diverso in questo conflitto, perché chiaramente tristemente, però insomma, sappiamo che il governo italiano ha una relazione profonda con Libia. Eravamo a punto di firmare un trattato bilaterale per cui si annullava addirittura la necessità di entrare con visto in Libia, cioè un livello di intercambio economico e culturale, insomma, per quello che si poteva, visto il governo. Però poi sempre va dietro la cultura, anche la cultura più indipendente, e l'abbiamo completamente perso, senza considerare l'esserci rimangiato il trattato di non aggressione firmato non moltissimo tempo fa, e che onestamente dà un'idea di quello che oggi intendiamo per politica internazionale, come si può cambiare di opinione e di parte così tranquillamente, no? Firmare un trattato di non aggressione e poi aggredire e bombardeare. Questo a quel punto, però, Flavio, era inevitabile che il governo italiano dovesse, sì, appoggiare l'intervento, proprio per non perdere ulteriormente, insomma, sì, i rapporti anche con lo CNT, e sì, quindi la possibilità di reinvestire nuovamente, insomma, in, sì, relazioni con il nuovo governo. Era inevitabile nella loro prospettiva, chiaro, no? chiaro. Però chiaramente, chiaro, quanto sarebbe stato importante uscire e cercare di fargli fare la pace a qualunque costo. Cioè, tutta questa macchinaria, tutti questi soldi che si sono spesi per fare la guerra, è inutile fare questo tipo di osservazioni, no? Perché quello che è non possiamo cambiarlo, eh? Però io scommetterei che, investendo molto meno, si sarebbe potuto fare la pace, cioè metterli seduti a tavolino e imporglielo, perché anche se fosse, mira, ammettendo che avessero cominciato i bombardamenti, Gheddafi l'ha detto molte volte, ora possiamo sederci a trattare, chiaramente spaventato anche dalla situazione, però che meglio di questa occasione, cioè bastava che la NATO lo imponesse al CNT. È triste anche questo, però erano tanto dipendenti dalle sovvenzioni economiche dall'appoggio di armi che stavano ricevendo, che avrebbero dovuto accettarlo. Quindi ancora una volta dimostriamo che lì l'interesse per fare la pace era niente, cioè era semplicemente impiantare no, il nostro vabbè, il CNT e il nostro dominio sul CNT e su tutta quella zona, no? Poi relazione, chiaro, con Qatar, con tutto quello che si sta muovendo nel mondo arabo. E invece dal punto di vista di ciò che ribolliva all'interno della società libica prima di diciamo arrivare a un momento di pausa, se ce la fai in pochi minuti, insomma, sì, una meritata pausa caffè, una tua, esatto, a darci una tua impressione anche in virtù di quello che dicevi poc'anzi, ti stavi soffermando brevemente anche sulla differenza che passa tra la situazione anche economica della Libia rispetto alla Tunisia e all'Egitto, ma d'altronde, insomma, proprio soprattutto alle prime battute, insomma, del conflitto, marzo, aprile, maggio, molto spesso è stato intervistato da organi di stampa nazionali Angelo Del Boca, il quale spesso ha sottolineato le differenze anche di PIL tra questi diversi stati africani, sì. Insomma, e dunque che cosa è successo? Forse sono venute a mancare delle prebende da parte dell'amministrazione di Gheddafi, che fino a quel momento erano riuscite diciamo a mantenere un certo tipo di consenso? Sì, io mira, l'analisi, l'idea che mi sono fatto sicuramente da una parte questo, da una parte di nuovo questa struttura molto complessa, tribale che regge Africa. Diciamo che quello che lì, quello che da noi sarebbe il Parlamento, lì è un consiglio di tribù, no? Che a volte è più effettivo, a volte è meno effettivo, se ne potrebbe parlare molto, però è la forma tradizionale di governo che hanno in molti dei paesi arabi o musulmani, no? Perché, diciamo che in Cirenaica comunque Gheddafi ha sempre incontrato una certa ostilità, insomma. Sì, no? Sì, no, sicuramente, perché qui parliamo chiaramente di... no, appunto di cordate familiari, di cordate di tribù, e io immagino di questo, insomma, ne possiamo essere sicuri che insomma la parte di Tripoli, la parte di Sirte si è arricchita con molta più facilità negli alti carichi governativi della parte appunto di Tripoli, chiaramente sono stati distribuiti anche a livello clientelare e familiare. Errori lì sono sicuro che non mancano. Il primo di tutti è mantenersi nel potere, nonostante che Gheddafi già non ostentasse nessun potere pubblico ufficiale, però un grande potere comunque sia carismatico, effettivo e reale, non nella politica reale libica. Immagino che sono stati distribuiti una grande rete di clientelismo, di favoritismi, di corruzione e quanto mass. Facendo una semplificazione molto, molto estrema e molto barbara, a volte io mi sono trovato parlando con compagni e con amici no, del fatto di una polarizzazione di una forma che potrebbe assomigliare a quella se ci fosse una guerra tra Madrid e Barcellona o tra Roma e Milano, nel senso interessi a livelli industriali, economici e familiari tanto forti che hanno portato a questo tipo di conflitto. Su tutto questo mettiamoci anche un controllo a livello di mezzi di comunicazione e di libertà di espressione molto forte e indiscutibile da parte del governo di Gheddafi, è pienamente criticabile. Su questo, cioè che ci fossero riforme da fare, sicuramente. Vado, no? ti chiedo per sapere se ancora stiamo bene con i tempi, che ci fossero riforme da fare sicuramente, e io voglio portare una testimonianza su tutte. Ho incontrato un giornalista di Benghazi che era il rappresentante di questo mezzo, che era il mezzo di comunicazione online e in carta più letto di tutta Libia, e che chiedeva riforme importanti, strutturali, e anche a livello appunto di libertà di espressione e di mezzi di comunicazione al governo di Gheddafi. E lui appunto vivendo in Benghazi amministrava, era il direttore di questo giornale, dove scrivevano molti dei leader di quelli che sono diventati poi leader del CNT. Io l'ho incontrato in Tripoli perché dopo la presa di potere del CNT, del Consiglio Nazionale di Transizione, i cosiddetti ribelli in Benghazi hanno occupato il giornale e gli chiedevano di scrivere completamente la versione che loro volevano dei fatti e della verità, cosa che lui, che veramente io posso dire, si può vedere l'intervista, purtroppo è spagnolo perché sta molto pensata per gli spagnoli, l'abbiamo, insomma, è uscita in vari televisioni online in Spagna, ma si può vedere in YouTube libremente. Dopo se volete, insomma, cerco la direzione, se chi parla spagnolo, per vederla, e in inglese anche, perché in inglese è sottotitolato in spagnolo. E questa persona di cui di cui la coerenza, di cui l'onestà secondo me erano evidenti. Una persona che chiedeva riforme, che aveva lavorato anni per migliorare o incontro di quello che lui stesso definiva il regime di Gheddafi, è dovuto fuggire da Bengasi perché nella sua opinione il modo di amministrare i mezzi di comunicazione del fantomatico CNT, di questo Consiglio Nazionale di Transizione, era infinitamente peggiore di quello che gli chiedeva Gheddafi. Lui mi ha detto, dice, io veramente non avevo più nessuna libertà, cioè mi amministravano addirittura, cioè passava una censura ogni notizia che redattavano gli stessi redattori che fino a 2 giorni prima stavano lavorando con la stessa gente che poi stava nel CNT. Devo dire che questa è stata una delle interviste per me più toccanti che ho avuto, perché ho visto veramente veramente la cristallinità di questa persona, nel senso che era un riformista convinto che aveva dovuto abbandonare il suo giornale che aveva messo su, e ci possiamo immaginare, no, il tipo di dramma e di tragedia di una persona che per coerenza deve abbandonare tutto quello che ha costruito, il più grande giornale di Libia, senza fare comparazioni, però è come se stessimo parlando della Repubblica o del Corriere della Sera, cioè non stiamo parlando di una cosa molto residuale, molto piccola. L'ha dovuto abbandonare per coerenza e andare dal lato di Tripoli perché non sapeva più come amministrare le pressioni a livello di mezzi di comunicazione che gli faceva il Consiglio Nazionale di Transizione. Bene, allora ci prendiamo qualche istante di pausa e ci ritroviamo tra pochi minuti. Odio l'estate, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Radio Onda Rossa. C'est formidable cette nuit, si tu savais le voyage que j'ai fait les yeux fermés. Je partais à la montagne avec la serveuse du café, c'est celle qui n'a jamais dû me voir cette nuit comme elle m'aimait. Je l'embrassais fou comme un diable et ses ongles s'enfonçaient. Quelle torture agréable, comme j'aurais voulu saigner. C'est formidable ce matin, si tu savais, c'est incroyable, si tu savais comme j'y croyais. Ses yeux brillaient comme des larmes et ses lèvres m'aspiraient. Toute brûlante et animale, elle soupirait, ses yeux brillaient comme des larmes et la langue bien aiguisée qui serpentait cannibale, ou comme j'aurais voulu saigner. Eccoci di nuovo, sono le 12:28, 87.900 Radio Onda Rossa. Dunque siamo qui con Flavio a discutere, ragionare insieme di Libia e dei bombardamenti NATO che da marzo sono piovuti in testa ai libici, con la scusa dell'appoggio ai civili rispetto a un conflitto. Anche Flavio stesso diceva sarebbe il caso comunque che le tensioni interne ai paesi, insomma, fossero comunque siano governate, insomma, appunto da un punto di vista interno, senza necessariamente che ci sia l'Occidente a portare la sua bandiera di umanitarismo di facciata, chiaramente, quando poi gli interessi che si nascondono sono ben altri. Protagonisti, insomma, di tutta questa vicenda sono stati appunto i ribelli, che sono stati esposti in primo piano per praticamente tutta la durata di questo conflitto. Sappiamo che poi invece la risoluzione dello stesso anche sul terreno militare si è avuta solo quando c'è stata l'intensificazione dei bombardamenti NATO. Da questo punto di vista, e anche rispetto alla propaganda che si è fatta, no, lo dicevamo prima, rispetto all'aiuto ai civili, dobbiamo dire che sempre di più, soprattutto nelle ultime settimane, si rincorrono invece le denunce, c'è quella ad esempio di Amnesty International, su quanto gli stessi ribelli invece stanno compiendo in Libia dal punto di vista delle azioni ai danni appunto degli stessi civili. Torture, saccheggi, arresti di massa, perquisizioni, soprattutto nei confronti dei cosiddetti mercenari di altre nazionalità africane, no? Questo è il problema che più sta emergendo, sotto scacco appunto di questa azione, vasta azione di carattere punitivo. Molti lavoratori stranieri di origine africana che comunque si trovavano in Libia e che nelle ultime settimane sono costretti a un esodo di massa, alcuni dei quali sono anche li abbiamo visti arrivare anche alle nostre frontiere, insomma. Ecco, quanto hai potuto osservare tu di tutto questo, sì, Flavio? Sì, quindi mira, è toccato un tema anche interessante, che è quello dell'esodo di massa sia dei libici, perché si calcola che più di un milione diciamo quasi e mezzo, no? Di 1.200.000 persone si siano mosse o desplazzate, no? Cioè, si siano mosse o all'interno della Libia, cioè hanno cambiato di parte della Libia secondo chi stava governando la parte, o comunque sia si siano dovute rifugiare all'esterno della Libia. Una delle cose, questa è una delle altre tragedie umanitarie e tragedie anche umane, no? che abbiamo visto e che abbiamo potuto anche registrare, perché noi tra l'altro siamo andati lì anche per fare un documentario, no? Un reportage con una finalità molto attivista, no? su questo tema, e anche per i mezzi di comunicazione, però devo dire che i mezzi di comunicazione occidentali hanno molta poca disponibilità poi a emettere notizie che non facciano parte di questo grande coro che magnifica l'intervento della NATO e di tutti i suoi alleati in questo momento. E uno degli elementi che abbiamo potuto per esempio girare e registrare è proprio la testimonianza di dei rifugiati che si stavano riunendo ai confini con la Libia, che già passavano dal lato tunisino, tra i quali c'erano moltissimi dell'Africa, appunto dell'Africa, chiamiamola così, subsahariana, dell'Africa più nera, più black. E tragedie umane di persone che erano state vivendo 10 anni o 15 anni o lavorando in Libia e che improvvisamente avevano perso tutto, e ci raccontavano che avevano dovuto lasciare lì la macchina, avevano dovuto lasciare lì la casa, o avevano dovuto lasciare lì tutti quanti i beni che avevano in qualche modo accumulato o messo da parte in quegli anni, no? E quindi la questione, si è parlato molto di questi mercenari, di questi famosi mercenari africani. Quello che io ho potuto vedere in prima persona, ho potuto vedere da un lato appunto molti africani che, dovuto alla situazione, non potevano più svolgere la loro attività lavorativa normale all'interno della Libia, e molti dei quali appoggiavano il governo libico perché avevano vissuto sotto la protezione del governo libico e chiaramente con una condizione economica che per loro sarebbe impensabile nei paesi di origine. Molti di quelli, almeno questo ci è stato detto, e abbiamo visto anche dei video registrati per esempio in Bengasi di linciaggi fatti in piazza di, appunto, di africani subsahariani o di africani principalmente Ghana, Niger o Nigeria. E quello che abbiamo potuto vedere o che abbiamo potuto intuire è che si trattava di persone che stavano lavorando lì con simpatie per il governo libico e che spesso sono stati presi molto facilmente per mercenari senza esserlo realmente. Sicuramente qualcuno si sarà anche perché dobbiamo pensare che la struttura che una struttura appunto di un governo africano di Libia è differente dalla nostra, no? Per cui molti si sono arruolati volontariamente in milizie diciamo civili in qualche modo, no? Milizie armate però non strutturate come un esercito, e molti di loro sono stati presi per mercenari e esecutati, cioè senza, con un processo sommarissimo, senza processo, linciati in piazza solo per il fatto, tra l'altro, a volte di essere neri, no? Per questa forma di razzismo che quello che è diverso o che è differente facilmente si identifica col nemico e con l'altro da perseguire. E abbiamo visto anche molti neri e nere, molte donne anche, che facevano questi famosi picchetti o accampate davanti ai luoghi storici al famoso quartiere generale di Gheddafi, che è una specie quasi di quartiere, cioè un'estensione di molti chilometri quadrati, per cui aveva molta popolazione civile che faceva da scudi umani per impedire i bombardamenti della NATO. Stiamo parlando di Bab al-Jazia, che è il luogo dove prima resideva Gheddafi lavorativamente, non la sua residenza personale, e che è stato bombardeato molto intensamente durante tutto il conflitto. Nei luoghi principali di questo quartiere generale c'erano questi scudi umani, una parte libici e molti africani anche, noi abbiamo visto. Per cui io credo che sul tema dei mercenari si è fatta molta letteratura completamente inutile e inventata. Qualcuno sicuramente ci sarà stato, però ripeto, la sensazione che abbiamo avuto più di persone che si sono appuntate a milizie, come ce n'erano altri civili libici che si sono appuntati allo stesso tipo di situazione, e solo per il fatto di essere neri si è fatta molta letteratura sul fatto di essere mercenari, pagati, gente senza scrupoli, che onestamente questa non è stata in assoluto la sensazione che noi abbiamo avuto. Non possiamo dire al 100%, eccomi, ora abbiamo chiuso la finestra, è vero che sì, è più sì, è venuto un po' di rumore, un po' di rumore e anche fa comodo perché ci si sente la voce più con più tranquillità. E comunque sia, noi abbiamo avuto questa sensazione che questa storia dei mercenari sia stata gonfiata moltissimo nei mezzi di comunicazione, soprattutto occidentali, e dall'altro lato, per esempio, si accusavano dall'altro lato, dal lato dei ribelli, del CNT, di avere molti mercenari o molte persone che si erano appuntate, no, mossi da questa fantomatica, no, guerra santa che ogni tanto muove, no, le energie del mondo islamico, e che si diceva che anche loro fossero mercenari, no? Io credo che bisognerebbe avere molta cautela con tutto quanto questo panorama, però chiaramente quando c'è la guerra è molto difficile rimanere cauti. Quello che noi abbiamo potuto vedere, molte più discriminazioni per i neri per le popolazioni africane subsahariane che in qualche maniera aiutavano la parte di Gheddafi, che dall'altro lato, però chiaramente questa è sempre una visione un poco parziale. Parlando anche della situazione della società civile o dei civili dalla parte di Tripoli o dalla parte diciamo che era bombardata dalla NATO, noi abbiamo potuto riscontrare molte manifestazioni di massa e molto appoggio dei civili per il governo di Gheddafi, che non è un elemento che noi dobbiamo considerare come un elemento definitivo, perché la sensazione comunque sia che abbiamo avuto anche noi è che ci fosse grande partizione nella popolazione, che probabilmente secondo il lato, secondo chi stava governando, l'altra parte non usciva fuori, aspettava in casa. Però quello che possiamo assicurare è molto entusiasmo nelle piazze e nelle strade, per esempio per appoggiare all'inizio, forse per appoggiare il governo una parte, soprattutto, e questo ci è sembrato molto interessante, abbiamo incontrato molta gente che ci ha detto: noi non siamo mai stati gaddafiani nel senso puro e duro della parola, o per esempio ho incontrato anche molti che dicevano noi siamo per le riforme e sempre siamo stati per le riforme, però oggi decidiamo di scendere in piazza con le bandiere verdi, di riempire per esempio la piazza verde, di fare manifestazioni di questo genere, perché chiaramente siamo in contro dei bombardamenti della NATO. Io credo che nessuna popolazione civile, cioè basta fare un esercizio, un minimo di immedesimazione, no? Se succedesse una cosa simile in qualunque luogo del mondo, no? Che fosse Roma, nessuna popolazione civile credo che può accettare il fatto che si bombardi la propria città, o che si bombardino le famiglie, che eventualmente ci siano morti tra i civili in nome di una liberazione, no? Di una liberazione fantomatica. Questo mi sembra impossibile, per cui noi abbiamo visto, e questo mi sembrava interessante, molte testimonianze di persone che all'inizio dicevano noi abbiamo una posizione neutrale o anche riformista, perché pensiamo che Libia necessitasse delle riforme, però fondamentalmente siamo in contro dei bombardamenti della NATO e di questa intervenzione occidentale che sicuramente porterà lo sfacello alla Libia, no? Questa era la sensazione. Volevo però proprio a questo proposito chiederti, non so se forse questo è un modo diciamo di leggere con i nostri filtri e i nostri parametri quello che accade al di fuori, ma insomma c'è anche una certa curiosità nel sapere, nel capire se invece si sia formato un blocco sociale chiaramente contro i bombardamenti NATO e invece coerentemente anche decisamente in opposizione anche rispetto agli ultimi 40 anni di governo di regime di Gheddafi. Insomma, hai avuto la sensazione che ci fossero anche queste possibilità all'interno di questa crisi generale, oppure purtroppo la polarizzazione che c'è stata è stata così netta o da una parte o dall'altra, con poco spazio insomma per invece rivendicazioni, tutto sommato a noi ci farebbe piacere insomma che ci fossero, ma forse non ce ne stanno, più sbilanciate sul versante sociale degli interessi di classe, tanto per dirci, insomma. Sì, Da un lato io credo che la polarizzazione, perché è una situazione di conflitto e di guerra, ha una tendenza, no, evidente alla polarizzazione. La polarizzazione alla fine un poco dominava, per esempio nelle strade di Tripoli e intorno a Tripoli sicuramente, però ripeto, c'erano molte voci ed erano voci che non erano silenziate. Questo mi è sembrato interessante, che continuavano chiedendo riforme, però al di fuori dell'intervento della NATO. Anche nei mezzi di comunicazione, abbiamo parlato prima di questo giornalista che pare il direttore del giornale, no? Di cui abbiamo parlato prima, che ha lavorato molti anni per le riforme, molti anni con la stessa gente che poi adesso forma parte del Consiglio Nazionale di Transizione, e che sono profondamente in contro dell'intervento della NATO e dei bombardamenti. Per cui io penso che c'era questa posizione, era diciamo sottostante, e penso che forse era una posizione, la sensazione che ho ottenuto maggioritaria in Libia, per cui il vero intervento interessante sarebbe stato chissà aiutare Libia a risolvere questa situazione, a avere delle riforme, chissà anche nel senso di classe. Non abbiamo potuto profondizzare troppo profondamente su questo tema, però io di nuovo ricordo che a livello strutturale economico stiamo parlando di una realtà dove per esempio non c'è povertà evidente nelle strade, cioè non abbiamo mai visto gente mendicare, però questo chiaramente il fatto che sia visivamente così non è definitivo, però ripeto, stiamo parlando di una situazione in cui hanno delle garanzie sociali molto forti rispetto ad altri stati sicuramente africani e comparabili con quelle che abbiamo noi nel bacino del Mediterraneo, no? Cioè la sanità assicurata, l'istruzione assicurata, la possibilità di studiare fino all'università gratuitamente, una tassa ora mi sfugge la parola in italiano, a volte c'ho una sorta di sussidio, vuoi dire? No, dico la tassa di non lavoro, no? Vabbè, comunque sia. Di disoccupazione, esattamente qui è arrivata una suggerenza, un suggerimento perfetto in tempo. Una tassa di disoccupazione tra le più basse di tutta l'Africa, e di nuovo avevano questa sorta di sussidio familiare di 300-400 euro per mese che derivava dal petrolio. Un'altra cosa che dobbiamo considerare molto forte, tutti quanti hanno una casa di proprietà. Tra l'altro io credo che questo è uno dei temi che si è un po' passato, non ci siamo presi neanche il disturbo, cioè ci siamo disturbati a bombardare ma non analizzare realmente quello che era un po' questa struttura sociale, che ripeto è una struttura sociale che era governata di una forma di consiglio di tribù, per cui con una forma di rappresentazione familiare complicata, però tutta nel marco di questa rivoluzione che era la rivoluzione verde, con questo libretto verde che a volte che soprattutto in Occidente si è parlato di questo libretto verde come di un come un poco di un delirio un poco fantasioso, ma che comunque sia io che sono stato, insomma, che l'ho letto lì, ci sono passaggi che mi sembrano estremamente attuali, estremamente interessanti. Uno di questi è sulla proprietà della casa. Tutti i libici hanno quasi per diritto una casa a prezzi che sono prezzi sussidiati appunto dal governo, appoggiati dal governo, per cui la facilità di comprarsi una casa facilmente, lavorando anche nella forma più semplice possibile, no? Questi sono tutti piccoli elementi che però ci fanno pensare a una struttura sociale molto diversa da quella, per esempio, che viviamo anche noi in questa società, e che vogliamo fare una scommessa: in pochi anni questo cambierà sicuramente, le case in Libia costeranno infinitamente di più, no? Io, saltando un po' con un altro tema, però una testimonianza di un altro posto dove ho avuto la fortuna e sfortuna di lavorare, perché seguo situazioni di conflitto, Afghanistan, cioè le case adesso hanno un prezzo che sono proibitivo per gli afghani, per esempio in Kabul, e questo deriva semplicemente dal fatto, dall'ingerenza occidentale. Siamo arrivati, le case sono cambiate, hanno cominciato a strutturare le case nella forma occidentale. Quello che prima compravano una casa, mi sembra, con meno di $10,000, adesso sono $100,000, che per noi ancora sembra economico, però sono completamente inaccessibili per una gran parte della popolazione afghana. E questo, insomma, la dice lunga sulle possibilità, insomma, che incontreranno i ceti subalterni libici rispetto a una ricostruzione che è giocata tutta, insomma, sulla loro pelle e per conto di interessi, insomma, che non sono i loro ma sono quelli delle potenze, insomma, che hanno attaccato la Libia. Rispetto invece ai mezzi di comunicazione, questa è una delle guerre forse più meno raccontata, insomma, che ci sono state ultimamente, più mal raccontate. Gli unici servizi che arrivavano sembravano quasi tutti artefatti e costruiti, bisogna dire, da una parte e dall'altra, perché da questo punto di vista dobbiamo mantenere anche una certa rispetto invece a un tipo di informazione che si è mossa più in modo indipendente, quali sono state invece gli ostacoli che avete incontrato voi nel raccontare la vostra esperienza? Sì. Guarda, partiamo anche da un'altra cosa che non abbiamo raccontato. Noi abbiamo incontrato, quando siamo arrivati lì, abbiamo incontrato una piattaforma, una sorta di ONG che si stava formando per dare la possibilità agli occidentali di viaggiare in Libia e di creare delle commissioni che accertassero la realtà dei fatti o la situazione o la violazione dei diritti umani sul territorio, no? Quindi un ONG, chiaramente c'era una parte molto forte di appoggio al più che altro in contra dei bombardamenti, un ONG trasversale con alcuni stranieri anche che lavoravano in Libia. Di fatto c'era anche un'italiana con cui abbiamo avuto la fortuna, insomma, di poterci muovere o comunque sia di poterla incontrare per Tripoli, che ci raccontava anche lei esplicitamente che non aveva nessuna simpatia per Gheddafi. Lei era un'impresaria, cioè aveva montato una piccola impresa lì, una piccola società di import-export. Pensiamo che in Libia e stavamo in questo momento in uno dei momenti di più grande boom economico e di costruzione che si erano registrati di tutta la strada di Libia. Cioè, quando noi siamo arrivati a Tripoli e anche tutta la strada dalla Tunisia fino a Tripoli e da Tripoli fino verso, diciamo, dal lato di Sirte e Misrata e quanto mas completamente piene di gru e di costruzioni e di e di economia in movimento. Questo chiaramente non è necessariamente un fattore positivo, no? Perché io, insomma, voglio dirlo pure a livello personale, scommetterei molto di più su un decrescimento, cioè su cercare di fermare questa forma, non di crescere, di sviluppare, di costruire cose che poi rimangono vuote, perché l'economia funziona un po' così, no? con queste grandi bolle, come la bolla immobiliare, della quale stiamo anche noi pagando le conseguenze, e che paradossalmente più a maggiore bolla immobiliare, a maggiore impossibilità dei ceti o della gente, diciamo, con un salario basico di accedere alle case. Cioè la contraddizione è massima. Bolla immobiliare, io dico guarda, potrebbe anche andare bene, andiamo a Dubai, che è proprio l'esempio più grande della bolla immobiliare, quartieri e quartieri senza nessuno che vive là, e case che costano incredibilmente, no? E noi ne paghiamo le conseguenze anche qui in Occidente, dove è successo lo stesso. E io, figurati, insomma, vengo dalla Spagna, dove hanno vissuto tantissimo di questa forma di sviluppo incontrollata, no? Dove il capitale comanda sulla politica, la politica perde completamente il controllo perché rivalorizza terreni e quanto masse. Quindi questa era anche un po' la situazione di Libia, cioè di una crescita economica incredibile, e ritorno alla donna, appunto, che stava facendo appunto affari, questa donna italiana, che mi diceva: io non ho nessuna simpatia per Gheddafi, però ho ancora meno simpatia per l'ingerenza occidentale e per la NATO, per cui sto in questa ONG, per incontrare appunto gli attivisti che vengono da tutto il mondo e per cercare di montare una rete di lavoro internazionale. Noi abbiamo incontrato una commissione francese, una commissione inglese e quanto mass. E ritornando ai mezzi di comunicazione, perché comunque sia anche mezzi di comunicazione erano in queste commissioni, c'era una difficoltà oggettiva a andare liberi sul territorio, cioè bisognava sempre creare un poco di escamotage. Alla fine noi abbiamo girato anche liberamente in varie zone di Tripoli o anche fuori, però c'era una tendenza forte al controllo da un lato e dall'altro, chiaramente, no? Perché anche nel CNT sempre di più controllavano, e soprattutto controllavano grazie alla pressione di questa informazione, che poi rileggeva tutto in chiave favorevole alla NATO e all'alleanza. Però dobbiamo considerare che questo, e io ne parlavo anche appunto con i colleghi giornalisti libici o con questi attivisti, cioè dobbiamo considerare che in una situazione di guerra il fatto che ci siano delle limitazioni anche al movimento dei giornalisti a volte non è il massimo, non sarebbe la situazione ottimale, però è reale. E ritorno alla situazione, per esempio, in Tripoli: la maggioranza dei giornalisti occidentali erano concentrati in due hotel, principalmente in uno, poi sempre di più hanno finito spostando in uno che era il Riscio, che è diventato un po' il simbolo del giornalismo lì in Tripoli. Non sempre si poteva uscire liberamente, o comunque si accompagnavano nei luoghi dove avvenivano i bombardamenti o tutto questo, per la grande paranoia anche che c'era della possibilità che alcuni dei giornalisti potessero informare la NATO. Secondo me è anche un po' esagerata, anche un po' ingenua, no? Perché io credo che oggi ci sono ben altri mezzi anche per prendere coordinate che le poche cose che, insomma, che si può vedere sul piano del terreno, che anche forse può. E, può passare. Però detto questo, quello che noi abbiamo visto, per esempio, era questo taglio sempre molto preordinato e sempre molto molto aderente agli interessi della NATO, agli interessi di Occidente, di tutti i giornalisti che facevano parte di quello schieramento. Paradossalmente si creavano come due schieramenti, no? Quelli un poco più aperti verso le posizioni della Libia, o che perlomeno avrebbero voluto una negoziazione di pace, e in questi poi sono andate cambiando le posizioni, però principalmente c'erano i giornalisti russi, cinesi e venezuelani, fondamentalmente, che erano quelli, devo anche dirlo, con i quali noi mangiavamo con più piacere alle tavole e uscivamo un poco insieme e avevamo forse anche un poco più di libertà, e quelli chiaramente della BBC, della CNN, che automaticamente, cioè nelle conferenze stampa, automaticamente qualunque versione dessero i libici veniva presa, il governo libico con i suoi, insomma, portavoci, rappresentanti, veniva messa in critica. Dall'altro lato, qualunque versione venisse data dal CNT veniva presa come effettiva e come oro colato. Ora io credo che una posizione un poco no, obiettiva e equidistante non sta in nessuna delle due parti, no? E chiaramente in qualunque guerra le due parti contrapposte cercano di leggere la realtà in una chiave che sia favorevole a loro, però avere questo ruolo tan forte, che noi abbiamo visto tanto forte, dei mezzi di comunicazione occidentali per cercare di criticare sistematicamente tutto quello che si dicesse dalla parte, per esempio, del governo libico, e cose anche molto, cioè posso fare un esempio, siamo andati dopo, ecco, delle bombe che avete sentito, siamo andati la notte stessa a vedere i luoghi del bombardamento, e poi siamo andati nell'ospedale dove c'erano tre cadaveri, no? Diciamo, erano le tre persone morte in quel bombardamento. E una scena tra l'altro abbastanza agghiacciante, perché erano in condizioni fisiche molto, insomma, molto impattanti a livello visuale, tanto che era veramente difficile poterli utilizzare pure anche a livello di reportage o di news, no? Per metterli, era quello un po' che dicevano, no? I giornalisti un po' di tutte le testate, che era troppo duro, con questo odore molto forte di corpo bruciato, che è un odore, insomma, che mi auguro che nessuna delle persone che sta ascoltando debba sentirlo, perché è veramente molto duro, entra dentro ed è molto sgradevole. E poi vedere il giorno dopo, perché poi c'era questo gioco tra la gente, appunto tra i giornalisti che stavamo lavorando nei mezzi di comunicazione, di vedere come scrivevano gli altri, quello che scrivevano, vedere alcuni mezzi importanti statunitensi dire suppostamente sono morte tre persone in questo bombardamento, quando effettivamente questo era un dato di fatto tan clamoroso, insomma, bruciati, tangibile. Sì, tangibile, cioè l'abbiamo visto tutti quanti, no? Poi si può parlare sui dettagli, hanno detto che erano civili, non sappiamo se erano vestiti da civili, questo sicuramente, no? Per cui si può sempre dire, no? Hanno detto di essere civili, non possiamo esserne sicuri al 100%, però il dato tangibile di avere tre morti davanti, insomma, per questo bombardamento, vestiti da civile, e dire suppostamente sono morti tre persone, è stato veramente un dato scioccante, no? Di cui noi giornalisti abbiamo parlato il giorno dopo molto nei corridoi là del Risciò. Senti Flavio, allora mancano 5 minuti alle 13, quindi dobbiamo davvero andare di corsa, e a questo punto non possiamo far altro che ritornare, insomma, proprio da dove siamo iniziati, da dove abbiamo iniziato. E quindi tu adesso, insomma, cosa hai in programma? Immagino che ritornerai dalle tue parti con questa esperienza alle spalle, una triste esperienza alle spalle, ma credo che la investirà, insomma, per fare in modo che comunque dalle tue parti, appunto, si crei un'attenzione su queste vicende, ripetiamo, un'attenzione che invece è mancata e che ha costituito forse il presupposto anche per noi per parlarne in modo così prolungato questa mattina, al momento in cui ci sembrava davvero doveroso colmare in un certo senso un deficit che per lunghi mesi si è protratto anche dal punto di vista della critica, insomma, della controinformazione. Dunque il 24 c'è questa iniziativa, no? Sì, questa iniziativa a Madrid, esattamente quello che stavi dicendo, ora ritorniamo. L'esperienza, sicuramente qualunque conflitto e guerra è un'esperienza triste, però io credo, cioè non dimentichiamo questo, che noi abbiamo un grande ruolo come società civile, come persone, come soggetti, no, politici attivi, ognuno nel suo contesto, da giocare. Per cui, se è stato molto importante questo anche in Iraq, io credo che dovremmo cercare di mantenere una rete permanente di allerta su questo tema, che è il conflitto, e soprattutto questo conflitto imperialista che ci tocca a noi molto da vicino, perché è un po' la soluzione che vediamo che Occidente nei momenti di crisi e nei momenti in alcuni momenti puntuali esporta in varie parti del mondo, secondo, no, le convenienze del momento. Per cui il mio invito di nuovo, no, è a lottare ognuno nel suo contesto e secondo quello che può fare, per creare reti e anche reti soprattutto internazionali. Io voglio anche invitare tutte le persone che insomma, che hanno desiderio o contatto, possono contattare anche con questa piattaforma che abbiamo costruito in Spagna. Ce n'è una che è famosa, insomma, che è il No alla guerra, in questo momento meno attiva perché è quella di Iraq, o la nostra che è Occhi per la pace, Ojos por la Paz, che è una piattaforma molto eterogenea, però anche possiamo essere in contatto anche a livello di informazione e controinformazione, che è un elemento in mia opinione molto importante e un elemento iniziale per muovere la gente, perché scenda in piazza o comunque sia si mobiliti in contro della guerra. Voglio anche dire, se volete mi potete contattare anche a me personalmente, mi chiamo Flavio Signore, il mail è molto facile, flaviosignore@gmail.com, per stare in contatto e per fare e per costruire reti di attività transnazionali, per esempio dalla Spagna all'Italia. Questo già si può fare, o comunque sia per prendere informazioni, per andare sul per la gente che nel futuro abbia idea di andare in Libia per fare lavoro di controinformazione, di, che anche questo è molto necessario e molto importante. Di nuovo il 24 abbiamo questo appuntamento in Madrid che speriamo sia perlomeno partecipato. Sappiamo che noi veniamo in Spagna da una situazione di mobilitazione sociale molto forte, che chiaramente si è infuocata e incentrata principalmente sulle questioni occidentali, strutturali, economiche nostre, però si sta aprendo anche a questo punto super importante, che è il punto della guerra imperialista, del, dell'armamento, che non possiamo veramente desligare o scindere dal, dal contesto globale che stiamo vivendo. Assolutamente no, d'altronde insomma quello che succede nel Nord Africa ce lo dice in modo apertissimo, così come di rimando insomma le spese militari contribuiscono chiaramente a diciamo innescare insomma no, situazioni dal punto di vista del bilancio degli stati, che sappiamo benissimo poi chi va a pagarle. Basterebbe insomma tagliare di qualche punto le spese militari insomma di tutti i paesi e delle potenze maggiormente industrializzate per venire a capo di tutta una serie di problemi. Di Spagna ci dicono se puoi ripetere la mail, immaginiamo quindi che ci siano ascoltatori e ascoltatrici che vogliono contattarti. Sì, la mail è il mio nome e cognome, che è Flavio Signore arroba, cioè la chiocciola, la roba è in spagnolo, quindi flaviosignore@gmail.com, che insomma è molto semplice, e tutti i contatti sono benvenuti, tutti sotto l'idea di cui stavamo parlando appunto, no? Cioè, se quello che vogliamo e quello che vogliamo costruire è un mondo, no? Per cominciare che sia senza guerra, e poi figurati che sia giusto e che sia quello che dicevi tu, no? Cioè, costa tanto sognare un mondo dove non ci sia bisogno di costruire le armi. Io penso che questa è una necessità super importante, che dobbiamo cominciare a costruire con serietà tutti quanti, no? Che è quello che stiamo facendo, a cominciare da questa chiacchierata, da questa, questa, no? Questa discussione anche che abbiamo fatto con molto piacere e con molta, no? Con molta passione a momenti, e poi portarla appunto nel territorio, nelle piazze. E, insomma, non dimentichiamoci un elemento che, dal quale tu partivi al principio, cioè tristemente molta, molta sinistra, e veramente qui non, no, non descriviamo nessuno, cioè che tutti quelli che abbiano sensibilità contro della guerra, che veramente che si manifestano su, su tutto questo, però è molto triste che schieramenti o persone che storicamente si erano decantate o si erano schierate in contro della guerra, in questo caso non abbiano avuto la coerenza o la capacità di leggere questo conflitto come l'ennesimo conflitto che si è aperto. Io veramente quando ha cominciato ho detto ricominciamo da capo, cioè non è bastato un Iraq, che chiaramente non sarà come Iraq, no? E ben, meno male, insomma, ben venga, no? E, o almeno lo speriamo, perché poi sai, non possiamo mai sapere come sviluppano gli eventi. Però veramente non sembrano esserci gli stessi elementi, però in un'altra forma, depotenziata, e tristemente con l'idea che loro hanno appreso la lezione, no? Che hanno deciso di non farlo tanto rapido, di non entrare sulla terra, ma lasciare una coalizione, appoggiarla da fuori, dargli soldi, cioè cominciamo, è la stessa operazione mascherata e macchiata con la scusa di nuovo di un dittatore, di qualcuno che sicuramente aveva le sue contraddizioni, però... Io veramente penso che è tanto facile pensare, cioè che c'è maggior criminale negli ultimi 10 anni della nostra storia che non si chiami George Bush e che sta tranquillamente nella sua tenuta, nel suo rancio in Texas, che perché dobbiamo andare a vedere Gheddafi, che in confronto sicuramente alle sue contraddizioni, alle sue cose, però è come una pequeña banda malavitosa in confronto con la mafia, no? E purtroppo e tristemente questa è la situazione, e perché? Ritorniamo al discorso sui mezzi di comunicazione, perché il mezzo di comunicazione è tutto schierato e crea una situazione di, no, di convincere, di bombardamento delle opinioni, che è tanto forte che molta gente, ma anche io lo devo dire a livello personale, amici miei con i quali abbiamo combattuto proprio, no, nel senso nelle piazze in contro della guerra di Iraq, dice no, perché Gheddafi, la situazione in Libia, e che andiamo all'origine, andiamo alla struttura, manteniamo capacità e freddezza di analisi, perché una guerra imperialista, una guerra di conquista, alla fine sempre si riduce a questo, no? Certo, certo, insomma, si rimane sempre spiazzati, insomma, di fronte a certi atteggiamenti, soprattutto di fronte alla guerra, ma come dicevi tu, insomma, da parte nostra, dal canto nostro, non dobbiamo mai smettere di ragionare in modo freddo, puntuale, cercando di interpretare quello che succede nel modo, speriamo, insomma, più corretto possibile. Ci abbiamo provato con te questa mattina, Flavio, noi ti ringraziamo, ringraziamo per questa lunga chiacchierata con cui arriviamo direttamente al GR delle 13 dell'ora di pranzo. Rispetto alla Spagna e ai movimenti sociali che si muovono ormai da mesi in Spagna, insomma, l'approfondimento sarà domattina dai microfoni degli 87 900 di Radio Onda Rossa. Ciao Flavio, grazie. Ciao a voi.